E rieccoci alla fuga del gatto, puntata del... Oddio, che giorno siamo oggi? Il 22? Domenica 22 gennaio 2017, sempre su Radio Wombat, ovviamente, o Wombat Radio, a seconda di quello che vi piace di più. Con me c'è, cioè, come sempre, Virginia, che ormai secondo me ti possiamo promuovere a co-conduttrice. Come si dice nelle radio quelle vere? Faccio lo scatto. Che cazzo, sì, secondo me hai fatto lo scatto. Hai fatto lo scatto. Lo scatto d'anzianità. E l'ospite in studio, perché questa volta abbiamo l'ospite in studio. Sì, abbiamo deciso che secondo me anche lei in realtà è a fare la gavetta e poi anche lei spera di poter fare uno scatto. In realtà in questa sede è più che altro un ostaggio, cioè sì. È stata, diciamo, attirata in quell'inganno. Sì, e dalla stufetta. Quindi diciamo, la Marfie, ecco, signor signore, in studio. Esatto, anche lei, perché anche noi come la... come altre trasmissioni qui al Wombat, che hanno i loro ospiti in studio, fanno i concorsi per far vincere ai propri ascoltatori un posto per ascoltare la diretta, anche noi facciamo la stessa cosa. Tribuna d'onore. Sì, però in realtà non facciamo i concorsi, noi li rapiamo. Esatto, è stato un rapimento. Li obblighiamo. Bassi, con l'inganno. Esatto. E oggi, questa domenica, vi raccontiamo una storia di quelle belle, edificanti, visto che domenica scorsa vi abbiamo... Siamo state un po' hardcore, sì. E vi abbiamo raccontato cose bruttissime, di mutilazioni. Soprattutto per gli uomini, cioè era una puntata un po'... Sì, era una puntata gore. Ma questa domenica vogliamo un pochino indorarvi la pillola e quindi passeremo a delle cose molto più edificanti, perché vi parliamo dello schiaccianoci di Tchaikovsky. Classicone di cui io, vabbè, dai, lo devo dire subito, io non so niente, faccio schifo, vabbè. E quindi, cioè, qui la Virgi, meno male che ci racconterà tutto, perché io se no facevo scena muta come alle elementari. Bene, sì, diciamo questo. L'opera balletto dello Schiaccianoci è una delle più famose, insomma, tra gli appassionati di balletto classico, ma in generale comunque, e forse una delle più famose, anche meritatamente, diciamo, che non vive di falsa gloria, perché è effettivamente bella, chiaramente è una parola riduttiva, ma piuttosto anche complessa e con delle sfaccettature molto interessanti anche rispetto a, diciamo, tutta la tradizione del balletto classico in generale. Un po' perché l'autore, chiaramente, Tchaikovsky, per quanto uno possa amare o non amare, insomma, il suo stile, il momento appunto in cui componeva, era fondamentalmente appunto così dettato da queste vene di romanticismo estremo, che in musica chiaramente poi assume connotazioni abbastanza diverse dalle altre arti letterarie, però diciamo si colloca un po', diciamo, se proprio si vuole collocare in questa corrente qui. È per quello che non ne so niente, ecco, secondo me. Perché effettivamente appunto per tante cose, anche un po' superficialmente, viene considerato un po', come dire, come che degli impressionisti francesi, cioè, diciamo, talmente amati, talmente sfruttati e anche un po' forse appunto sciacquati di quella che sarebbe magari un po' la loro invece motivazione iniziale, la loro spinta iniziale, che tutto era fuorché piacere al borghese americano, insomma. Invece sì, ora spesso nell'arte succede che bisogna prendere un po', sempre capire il contesto storico, no? E da dove vengono certe cose, non magari come adesso vengono viste. Ho fatto il riferimento all'impressionismo francese proprio perché è uno dei più, no, calzanti, però fa capire un'arte. Sì, certo, le ballerine di Degas. Esatto, è un'arte che era nata come dirompente, come, no, destrutturante di tutta una serie di formalismi, in realtà è divenuta poi la più mainstream, se vogliamo, la più borghese in un certo senso. Così forse un po' soffre anche, molti musicisti classici soffrono di questa eredità e di questa critica postuma. Come Schiaccianoci, secondo me, ci hanno fatto anche la pubblicità di un SUV. Oh no, darsi. Vabbè, le musiche delle Schiaccianoci sono tra le più, davvero, proprio perché, come vedremo, è diviso in molti, molti frammenti e straibili facilmente e molto belli, anche presi proprio nella loro unicità nella loro brevità, proprio perché è strutturato come una serie in molti momenti, esatto, e quindi poi è stato molto sfruttato per gli spot, per tanti. Ci faremo anche noi uno spot della radio. Ce l'avremo. Per cui ecco, nel 2012 l'opera balletto con le musiche composte appositamente da Piotr Ilich Tchaikovsky compiva 120 anni, essendo poi infatti il suo debutto del 18 dicembre del 1892. E, diciamo, nei primi anni 90 dell'Ottocento il direttore del Teatro Imperiale di San Pietroburgo, il Teatro Mariinsky, Ivan chiedere di pronunciare bene in russo, abbiate pietà, Zerovsky, commissionò a Tchaikovsky un'opera, appunto, un'opera specifica, la composizione di musiche per un nuovo balletto, perché dopo il grande successo che il compositore aveva avuto per il suo balletto La Bella Addormentata, appunto, era molto richiesto. Il compositore si fece aiutare anche questa volta da Marius Petipa, che era un coreografo, uno dei primi, tra l'altro, appunto, applicare, insomma, la forma danza al teatro, con cui aveva già lavorato per altre opere, e che gli propose un adattamento, glielo propose proprio lui, un adattamento del racconto Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi, che in originale era di Eta Hoffman, ma la loro versione, loro scelsero la versione di Alexandre Dumas padre, quindi la versione di Alexandre Dumas padre di questo racconto, che era più, diciamo, un po' più semplice, un po' meno, aveva appunto un po' meno complessità rispetto a quella di Hoffman originale. E comunque anche la versione di Dumas fu chiaramente semplificata notevolmente rispetto all'originale, per essere più adatta, insomma, alla narrazione con musica e balletto. Quindi chiaramente i balletti sono seneddochi, cioè prendono una parte per il tutto, devono rappresentare ovviamente dei caratteri e delle storie, quindi non possono avere un libretto di un'opera lirica, perché chiaramente non c'è la parola. E questo, la storia appunto fu un po' semplificata e adattata per essere un balletto in due atti, quindi non è nemmeno molto lungo rispetto ai balletti tradizionali, dura 90 minuti la suite, insomma, compresa l'ouverture totale, quindi... E, appunto, a parte alcune interruzioni, insomma, la realizzazione fu abbastanza veloce, e anche se ovviamente, come spesso capita, il rapporto tra Tchaikovsky e Petipa fu un po' burrascoso, perché chiaramente, come spesso accade, insomma, quello che volevano realizzare, che avevano bisogno di prendere dal libretto, andava un po' spesso in contraddizione. In generale, diciamo, la suite, che fu poi anche estremamente popolare anche in sede concertistica, cioè proprio come suite da concerto, fu realizzata nell'agosto del 1892 da Tchaikovsky, e a differenza degli altri due propri balletti, per i quali non era stato convinto a creare una suite, qui invece fece proprio questa suite in anteprima, diciamo, prima che uscisse il balletto, per vedere che risultato poteva avere, insomma, se piaceva. Perché sì, voleva arrivare preparato. Era un ragazzo un po' così lui. Quindi, insomma, diciamo, per vari passaggi poi si arrivò alla struttura completa del balletto, e come vedremo è composto di varie danze e molto particolari, e la, diciamo, la debutto fu diretto personalmente da Tchaikovsky a San Pietroburgo, appunto, nel 1892. Prima aveva già fatto debuttare la suite solo per strumenti, senza il balletto, che era una cosa abbastanza originale, che non si faceva solitamente, si faceva tutto insieme. Cioè, prima ci fu un debutto proprio della parte orchestrale, questo fa capire quanto fosse importante per Tchaikovsky che la musica non fosse soltanto a servizio dei corpi, della coreografia, ma che fosse assistante. Un'opera, esatto, che lui volesse un'opera fortemente sinfonica, anche in un certo senso, no? Da qui i problemi probabilmente col coreografo, che invece probabilmente voleva andare in un'altra direzione. Molto importante per Tchaikovsky era l'uso di un nuovo strumento musicale che volle introdurre proprio per la prima volta nella sua carriera in questo balletto, che è la celesta, molto amata. Che bella, sappiamo, la celesta in questa sede. Bella. e l'aveva vista a Parigi, l'aveva vista usare a Parigi e la volle assolutamente e l'aggiunse all'organico strumentale che appunto per la prima volta si avvale di questo strumento in Russia. Ma c'ha ragione, ma lo potessi fare anch'io e ora metto una celesta. Altro che. Madonna. E in alcuni passaggi del secondo atto, nel passo a due, nella danza della fata confetto, insomma è uno strumento che caratterizza molto questo balletto, che spesso si sente e che riconoscerete. E in effetti dà un bel tocco di esatto, surreale, esatto, di fiabesco di suo, anche il nome, la celesta. Esatto, infatti, insomma alla fine il 18 dicembre del 1892 lo Schiaccianoci ha la sua prima teatrale, appunto al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, e per cui insomma da questo momento in poi in realtà non ha il successo che avrà poi nel tempo, come sempre non ha un successo strepitoso, all'inizio, a parte le critiche buone alla prima ballerina, che è quella che interpreta la fata confetto, perché si pensa sempre che il personaggio principale Clara inizialmente sia il personaggio principale sia Clara, in realtà questo viene poi più tardi, perché come vedremo questo balletto ha avuto poi delle grandi modificazioni nel tempo e nei paesi dove è stato fatto, quindi diciamo in questa prima fase diciamo la parte principale è fondamentalmente appunto questa della fata confetto, che per la prima volta fu interpretata da una ballerina italiana, Antonietta Dell'Era, e i ruoli dei bambini per la prima volta venivano interpretati da veri bambini delle scuole magari di ballo e non da adulti, inferno, invece che inferno, le prove. Sì, esatto. L'orchestra fu diretta non da Tchaikovsky ma da Riccardo Drigo, compositore e direttore d'orchestra originario di Padova, figuriamoci, che trascorse buona parte della sua carriera a San Pietroburgo. E questo appunto fu invece non un insuccesso, ma non fu un grande successo. Alcuni critici scrissero recensioni appunto favorevoli nei confronti del corpo di ballo, delle scenografie, eccetera. Però il libretto fu anche molto criticato per aver semplificato eccessivamente il racconto di Hoffmann e di Dumas, mentre le musiche piacquero molto agli spettatori, cioè quasi più le musiche. C'è da dire che Petipa nel corso della realizzazione si era ammalato e gli era subentrato un altro, per cui probabilmente anche questo aveva reso un po' in realtà palesemente, siccome c'erano degli scontri, esatto, era stato avvelenato. Forse da Tchaikovsky, sì, nella nostra sempre distopie storiche, certo, che ci piacciono a noi. Quindi questo, insomma, direi, questa è la parte diciamo della genesi, la prima parte della nascita del lavoro in Russia. Vedremo poi che avrà una storia molto, molto lunga e cambierà molte volte in maniera significativa e assumerà anche dei significati diversi come opera. Per chiudere questa prima parte, il balletto è interessante, l'opera in generale, la musica del balletto è interessante, in generale a mio avviso uno dei più interessanti di tutto il repertorio del balletto classico, poiché il ruolo di Clara, il ruolo delle figure femminili in Clara in particolare, è molto diverso dalle classiche figure femminili dei balletti tratte dalle fiabe, come potevano essere Cenerentola, La Bella Addormentata appunto di Tchaikovsky stesso, ma anche altri, perché il personaggio di Clara presenta molte più sfumature e fa un viaggio, una crescita diciamo dall'inizio, attraversa proprio una metafora della sua crescita personale da bambina a donna, fondamentalmente un balletto di formazione balletto sempre voluto dire, sì, brava. E perché appunto lei ha un carattere, cioè, il personaggio di Clara permette una interpretazione maggiore, se vogliamo, rispetto ad altre figure femminili del balletto classico, e questo viaggio nel mondo delle fate che vedremo farà, le battaglie che deve affrontare sono appunto metaforiche della sua crescita e in certo senso del passaggio all'età adulta, anche perché no, attraverso la scoperta dell'amore di questo personaggio maschile che inizialmente è un giocattolo ma poi si rivela umano. E qui ci sarebbe da aprire una parentesi sull'educazione di genere notevole e interessante, ma che faremo magari in un'altra puntata. Sì, la prossima volta parleremo di un personaggio che sembrava umano e si rivela poi in realtà essere un giocattolo. Esatto, no? Esatto. Sì, sì. E quindi questo, insomma, a me piace molto, al di là un po' anche sfrondandolo da tutta la sua... leziosità che ha acquisito nel tempo, ma proprio per questi caratteri unici, anche un po' a tratti inquietanti, misteriosi, lo vedremo, certi personaggi sono proprio un po' per questo è un po' un fantasy fondamentalmente, l'uscita dalla realtà, il viaggio nel sogno e il ritorno alla realtà cambiati insomma, siamo appunto, il personaggio cambia dall'inizio alla fine. A me è sempre, cioè, lo associo, non so per quale ragione, beh, forse lo so, a Neil Gaiman, alle cose sì, scritte da Neil Gaiman. Ma perché in realtà, appunto, cioè, essendo il racconto di Hoffman, piuttosto un grandissimo scrittore, ma appunto essendo tratto non da una fiaba di Perrault piuttosto che dei fratelli Andersen, ma da un racconto strutturato, c'ha ovviamente una base letteraria molto più profonda. Sì, con le sue ambiguità, le sue ombre. Chiaro, e quindi anche l'opera, per quanto semplificata, per quanto sciacquata, estratta, conserva dei tratti forti, e i personaggi ovviamente sono diversi rispetto a quelli magari appunto che del Lago dei Cigni piuttosto che della Cenerentola, eccetera, eccetera. Per cui si è prestato, poi vedremo, a delle interpretazioni molto interessanti, che vanno anche proprio lontano dal tema classico natalizio a cui è abbinato, poi lo vedremo. Intanto possiamo far sentire un pezzo? Sì, facciamo sentire il primo pezzo. Allora, che aspetta, dov'è che mi sono scritto? Che dovrebbe essere Overture. Sì, l'Overture dello Schiaccianoche. Che poi si chiama mini Overture, si chiama breve Overture, proprio perché appunto non è un'opera lirica, un balletto, per cui ha un'Overture abbastanza breve, e che già presenta dei temi e dei tratti che poi torneranno, insomma, nel corso dell'opera. Sentitevi questo ascolto. Gli ascolti di questa domenica sono tutti molto brevi, sentirete, quindi non è che potete stirare per ore con la nostra musica, ma più che altro ascolterete noi che parliamo e poi qualche ascolto piccolino di musica. Però oggi vi va così, è la varietà, via. Quindi niente, a voi l'Overture di Tchaikovsky e lo Schiaccianoci. E rieccoci dopo questo primo ascolto che vi abbiamo fatto sentire, l'Overture, e continuiamo sul racconto di questo Schiaccianoci. Vi abbiamo un pochino introdotto, io non ho fatto niente, veramente, continuerò a non fare io l'altra volta ero impreparata. Hai visto, un po' per me, ma per quello che sei stata promossa, per il valore dimostrato sul campo. E quindi in realtà vi abbiamo un po' raccontato delle vicende generiche che gli alti e i bassi che hanno accompagnato questo balletto, come è stato generato, come è stato recepito anche, e adesso però vi raccontiamo un pochino nel dettaglio di cosa parla. Sì, ecco, sì, una piccola, certo, la sinossi. Allora, il balletto si svolge, all'inizio si svolge, perché poi in questa minaccia dal tempo in cui la seconda francese comincia la prima parte, finisce un attimo, in realtà è sempre, c'è una La notte di Natale si svolge appunto all'inizio del XIX secolo. Il signor Salbaum indice una festa per i suoi amici e per i loro figli. Appunto, in attesa dei regali, c'è questa atmosfera di entusiasmo, di attesa dei regali natalizi, tutti i bambini aspettano. Tutti sappiamo bene, esatto, cosa si prova. E quando arriva alla fine il signor Drosselmeier, che è appunto il personaggio principale, il zio di Clara, alla fine di quello che fa la festa, è la protagonista, e questa è la Fritz, porta regali a tutti i bambini, intrattiene con un gioco di prestigio, perché appunto è un po' un mago, un po' un personaggio un po' ambiguo, un po' particolare. Incute anche paura ai bambini inizialmente, perché appunto ha questo fascino un po' scuro. Alla sua nipote prediletta, appunto Clara, regala uno schiaccianoci a forma di soldatino, che Fritz, ovviamente fratello pestifero, rompe per dispetto. Che poi, che regalo è? Infatti, che regalo è uno schiaccianoci alla bambina? Ci doveva venire. Mai fare questo schiaccianoci, via via la festa, insomma, continua danzante, e appunto tutti se ne vanno, e Clara appunto rimane rimasta sola nella stanza, insomma, insieme all'albero di Natale in questa stanza durante la notte, tutto intorno a lei comincia a crescere, a diventare grande, a ingigantirsi, l'albero, i giocattoli, e arrivano appunto una miriade di topi sbucati da non si sa dove, a questo punto sono di dimensioni notevoli rispetto alla bambina, perché tutto si è ingrandito un po', diciamo, se si vuole pensare anche a Alice, infatti Probabilmente Carol ci aveva guardato. Beh. E cercano di rubarle lo schiaccianoci. Perché è un regalo veramente, insomma, ambito da tutti. Un regalone che ai topi gli farebbe comodo, uno schiaccianoci. Cioè, non formaggio, lo schiaccianoci. Vogliono lo schiaccianoci, lei lo difende ovviamente e lo schiaccianoci si anima. Si anima e ingaggia questa battaglia, diventa umano quindi, e ingaggia questa terribile battaglia con gli altri soldatini regalati al fratello, quindi che diventano il suo battaglione, e alla fine affronta il re topo, il re di tutti i topi, e c'è questa battaglia, e Clara, per salvare il suo schiaccianoci, prende, e qui è divertente, a ciabattate il re topo, che comunque non l'aveva fermato uno squadrone di soldatini, ma lo ferma una ciabatta, insomma. Le vecchie maniere. La vecchia ciabattata, anche mia nonna battipanne era sempre, è tuttora, insomma, a favore, un metodo educativo interessante. Certo, come Tom e Jerry. Esatto, lo schiaccianoci si trasforma ulteriormente in un principe, perché che fai, non ti trasformi in un principe, e porta Clara si apre questo mondo, diciamo, appunto fantastico, entrano in questo mondo, questa foresta innevata, e il primo atto appunto si chiude con questo valzer dei fiocchi di neve. Nell'atto secondo, insomma, c'è tutta una serie di vicende in cui il giovane principe porta Clara a visitare questo regno dei dolci. Io ho sempre amato questo balletto per questo, fondamentalmente, diciamo la verità, perché essendo una golosa compulsiva ossessiva, questo regno dei dolci a me mi attraeva in maniera particolare, dove li riceve appunto questa fata confetto, è un po' la regina poi di questo mondo, e che appunto avvia questo passo a due molto famoso nel balletto, insieme allo schiaccianoci, cioè questo bellissimo passo a due molto, insomma, celeberrimo, e tutto il palazzo, tutta la corte, perché a questo punto loro sono entrati in questo mondo alternativo fatto di palazzi costruiti di leccornie, di questa corte magica in cui si alternano una serie di danze composte da ballerini antropomorfi, per cui sono chi di caffè, fate confetto e chi più ne ha più ne metta, che sono poi le famose suite che si sentono spessissimo appunto in primis in Fantasia di Walt Disney, l'abbiamo già citato nella puntata su Fantasia, quello che in Fantasia vedete con le fate dei funghi, dei cardi e dei fiori, sono in realtà proprio questa suite di balli delle fate dello schiaccianoci. Quindi si capisce che Frisney non era così fuori di testa, esatto. Non si era proprio calato. No, che comunque Frisney lo sapeva di cosa parlava. Era colto comunque, non è che... Diciamo, ecco, che la storia, diciamo, continua e si alternano appunto questi passi a due del principe con Clara, il principe con la fata confetto, eccetera, eccetera, finché poi il balletto si conclude con un ultimo bellissimo valzer e il sogno della bambina finisce, la bambina si sveglia mentre albeggia e ripensa appunto a questo sogno magico, abbracciando quello che ormai è tornato a essere il suo schiaccianoci. Quindi ecco, diciamo che questo in brevissimo è la storia, che non rende, ovviamente non fa giustizia al racconto di Hoffman, che come abbiamo detto era molto più profondo e complicato, con parti molto più lunghe, eccetera eccetera, però diciamo questa è la semplificazione che è stata fatta a favore della creazione del balletto. Giustamente. Sì, possiamo qui appunto sentiamoci farci un altro pezzo. Già qualcosa, sì. Allora, abbiamo la marcia a questo punto, giusto? Sì, che appunto rappresenta i soldati, questa battaglia che vi dicevo, cioè iniziale. Il tentativo che poi... di respingere il re. Che poi sappiamo non va a buon fine, perché niente come una vecchia ciabatta. Come la vecchia ciabatta di Clara. Esatto. Che non è Clara, poverina, ma la sua ciabatta, effettivamente. Esatto. Letterale. E quindi niente, abbiamo questa marcia dei soldatini e anche questo un pezzo piuttosto piccolo e torniamo tra pochissimo. E rieccoci di nuovo qua, Fuga del gatto, Schiaccianoci, quella che avete appena sentito era la marcia di questo plotone di soldatini imbufaliti che cerca di respingere questa orda di topi maledetti capitanati dal re ratto. E però appunto, come sentivamo dalla sinossi, non ce la fanno, la potente ciabatta di Clara vince su tutto, quindi poi il bene trionfa in qualche maniera e si va in una fase successiva, che è quella più onirica. Beh, insomma, non è che il resto non lo fosse, però insomma è il secondo, è come Inception, ci sono i livelli. È il secondo livello, quello proprio del sonno più profondo. Diciamo che come già accennato, il balletto non rimase effettivamente nella versione di Petipa e di Tchaikovsky a lunghissimo, nel senso che già dal 1944, quindi diciamo, il balletto girò l'Europa in questa versione per molto. Poi però diciamo, il grande successo e l'eterna gloria, l'eterna fama, forse si devono, soprattutto nel Nuovo Mondo, in America, in generale nell'Occidente, ma insomma poi nel Nuovo Mondo, è in parte dovuta a William Christensen, fondatore della compagnia del San Francisco Ballet, che importò il lavoro negli Stati Uniti, il primo nel 1944, e la coreografia fu ricostruita, rimontata da niente poco di meno che George Balanchine, che comunque il nome sacro della storia della musica. Stuporone, fatelo stuporone. Sì, poi ce lo proviamo. Stuporone, sì. Della signorina Baccarone. Esatto. E quindi, appunto, per la sua prima rappresentazione nel 54, Balanchine creò una vera e propria nuova coreografia e dette vita poi alla tradizione invernale delle rappresentazioni dell'opera negli Stati Uniti, perché questo balletto è divenuto sinonimo di Natale e di rappresentazioni natalizie, di festa, in particolare in America, cioè lì ha assunto un significato molto legato alla stagione, che inizialmente non aveva fondamentalmente. Sì, il tema era natalizio, perché la storia era ambientata la notte di Natale, ma non è che per forza veniva messo in cartellone solo a Natale, come invece in America qua fanno, perché praticamente viene dato quasi perché solo. In America gli piace semplificare, hanno bisogno di credere le cose, in certe cose sicure, elementi semplici, sì, rifugio. Sì, non è che puoi cambiare tutte le volte. No. Per cui Balanchine, si diceva, decise di dividere il balletto in due parti, seguendo la trama originale, in realtà la realtà e il sogno, quindi il balletto è diviso proprio tra, nella sua versione, nella versione di Balanchine, diviso proprio un po' nettamente tra la parte della realtà, quindi la prima parte della festa. Che però dura pochissimo, quindi la parte della realtà. Sì, perché in realtà, infatti, questa versione è quella che viene rappresentata sempre dal New York City Ballet. Diciamo che lo Schiaccianoci è anche uno dei soggetti più rappresentati in generale dalle scuole di ballo. Un'altra versione in Italia molto famosa è quella creata per la scuola di ballo dell'Accademia alla Scala di Milano da Federico Olivieri e rappresentata anche nel 2011, nel 2012, insomma nelle ultime stagioni. Un'altra invece molto famosa sempre per la scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, ricostruita da Pablo Moret e Ofelia Gonzalez. Chiaramente si parla sempre di costruzione coreografica sui passi base di Balanchine e di quelli prima di Petipa, perché questo succede nei balletti, non è che si cambia, cioè nel senso si prende la coreografia base diciamo legata al balletto e poi ogni coreografo chiaramente dal suo taglio, dal suo stile, eccetera. In recenti allestimenti la partitura di Tchaikovsky non è riprodotta sempre fedelmente, perché purtroppo a causa della necessità di allungare a volte il balletto, perché il balletto, appunto, si diceva, dura meno di 90 minuti ed è quindi più breve rispetto ad altre composizioni di Tchaikovsky. In alcuni casi, purtroppo direi, perché mi sembrano operazioni tremende, la partitura è stata, diciamo, rimpolpata con aggiunte di brani provenienti da altre opere. Sì, una aberrazione. Ma perché? Mentre in altre ancora sono state riordinate le musiche originali con scalette diverse, perché appunto essendo tutto molto diviso a danze, a passi a due, eccetera, si possono appunto un po' risistemare anche al loro interno, no? Sì, questa è una di quelle cose che vengono fatte spesso e che veramente sì, io trovo un po', sì, esatto, perché però insomma per motivi probabilmente di vendita, anche per non farla proprio tutti uguali, perché la fanno tutte le compagnie più famose nel mondo, per cui probabilmente anche per non rifarla tutti uguali cercano di cambiarla un po'. O per dare risalto anche a quella, a certe quella parti, diva. Perché magari, non lo so, appunto, come si diceva in alcune, soprattutto nella prima versione, Clara non era un personaggio principale, era più importante. Esatto. La fata confetta, addirittura Clara a volte è interpretata da una bambina chiaramente studiosa di danza, però una bambina, mentre poi il risalto principale viene dato alla fata confetto, che è poi quella che come del resto si fa anche nel mondo dell'opera negli ultimi anni, che magari c'è il soprano strapagato e allora si altera un po' la partitura, sì, e si mette qualche nota più difficoltosa che non c'era originariamente per dare risalto. Esatto, è un po' che schifo, questo. Per noi, appunto, per noi non c'è, il balletto non è così tradizionale di un periodo, non è nemmeno così, cioè in Italia appunto non ha questa, però si deve pensare appunto che per il mondo anglosassone in generale, Nord America eccetera, c'ha proprio questa valenza legata al periodo natalizio e c'è tutta una serie poi di un'iconografia molto specifica che è stato molto difficile cambiare. Pochi sono riusciti a intervenire, diciamo, in modo interessante sull'iconografia del balletto. Un esempio, appunto, dicevamo anche prima, fuori onda, è quello di Maurice Sendak, il disegnatore grafico, insomma, illustratore, che fece una bellissima versione illustrò il libro originale, La storia di Eta Hoffman originale. E dal suo libro di illustrazioni, il balletto, il Philadelphia Ballet, volle ricavare le scenografie, i costumi e le scene per lo Schiaccianoci, che hanno quindi l'impronta specifica di Maurice Sendak. Quindi questo è uno delle versioni meno natale style e più appunto stilisticamente, ecco, poi di sicuro ce ne saranno dell'altre. Il balletto ha avuto anche versioni cinematografiche, nel senso che appunto Fantasia, per esempio, di Disney ha tratto la suite delle danze per fare il suo pezzo legato appunto a un'altra interpretazione stilistica che non c'entra con Natale, anzi sono funghi, fiori, piante. Forse il balletto di Fantasia, dei funghi e dei fiori e delle piante, è quasi più vicino diciamo alla genesi russa, perché forse fa più riferimento alla genesi, perché appunto il ballet, la suite scritta da Tchaikovsky, prende le danze sono tipicamente, appunto, addirittura ci sono la danza russa, Trepak, quindi proprio, cioè, c'è un riferimento alla cultura, alla musica popolare russa, alle danze, che chiaramente Tchaikovsky rivisita col suo stile, però c'è una forte impronta in questo senso. E quindi Disney, chissà, Disney forse si vuole rifare, insomma, i disegnatori si vogliono rifare forse più a questo che invece voleva alla... dire ci riusciamo anche noi, non solo voi russi, sì. Quindi andare oltre, insomma. Sto continuando a sbattere sul microfono, scusate se mi stasera siamo allo fare spac, sono io. E poi volevo appunto sottolineare che c'è una versione del 1990 di Don Bluth, se non mi sembra, del cartone animato. Io ho la cassettina molto carina, sì. Che quella fa un excursus buffo sulla storia dello Schiaccianoci, su come sarebbe nata la storia del Principe dei Topi. È carino, cioè amplia un po', fa un suo così, uno spin-off, diciamo, sulla storia dello Schiaccianoci, ed era fatta con le musiche di Tchaikovsky, ovviamente, con i pezzi in cui lei balla, quindi diciamo un cartone animato però musicale. Poi c'è una versione del 2010 addirittura di Konchalovsky, quindi di un regista che si direbbe piuttosto... Che mi ricordo quando uscì, non l'ho assolutamente visto. No, invece è stata piuttosto... non so se ha ragione, perché l'ho vista una volta sola, non mi sembrava tremenda, però insomma non è stata molto considerata, ed era una metafora un po' del nazismo, c'erano questi topi che in realtà erano nazisti, c'era tutta una rivisitazione con le musiche di Tchaikovsky originali e con altre musiche di Tchaikovsky, cioè nel cartone animato. Questo di Konchalovsky è un diciamo un'animazione digitale, infatti si chiama Lo Schiaccianoci in 3D, tipo, e utilizza Toy Story, esatto, style, che utilizza la musica del balletto ed altre composizioni di Tchaikovsky, tipo la Quinta Sinfonia, per gli arrangiamenti di questo Edward Artemyev e Tim Rice, che però non è stato molto apprezzato, non è stato molto amato, insomma non ha avuto grande... No. Queste no. Sono appunto le cose fuori dal balletto, insomma le altre interpretazioni sono state fatte dell'opera. Direi a questo punto sentiamoci un altro pezzo, dai, almeno Non vi tediamo troppo con le parole. Allora, io sulla mia scaletta, che è veramente piena e densa di parole, ho scritto fata a confetto. Sì, Questo è. questo è il momento appunto in cui c'è la danza della fata a confetto, in cui la vediamo per la prima volta nel Cioè, balletto. manco vi dico, È molto capito, i famosa. tempi, queste cose come fanno Niente, così, nelle no, trasmissioni di musica classica. punk, Oggi è noi siamo proprio così. punk, Sì, la spiace musica così, classica per è punk. così, filtrato da noi. Oggi è così. E quindi sì, fata confetto? Sì, Fata confetto vai. sia, sentitevi a fata confetto. È quella. Oh, e dopo la fata confetto. Che meno male che cioè io, se io fossi stata Clara non rimaneva niente lì, cioè No. finiva, io mi mangiavo il castello, tutta la corte, cioè meno male è andata bene che Clara Ciao. non era come me, perché insomma Schiaccianoci, schiacciamo buona. ciao, cioè proprio lì finiva la banda, se ero io. Come dicevamo, il balletto di Tchaikovsky rimane una tra le più popolari composizioni della tradizione russa e comunque insomma tra le più famose di quest'autore. Le musiche, diciamo, sono, se si catalogano, insomma, si fanno risalire alla tradizione, diciamo, romantica, e contengono alcuni tra i più memorabili, forse, brani di tutta la tradizione romantica, in generale della musica per balletto. Non a caso molte sono state estratte per film piuttosto che per tormentoni pubblicitari, eccetera. Il Trepak o Danza Russa, che è una delle parti delle suite che si sentono appunto anche in Fantasia, è una delle parti più riconoscibili, insieme poi al Valzer dei Fiori e al Valzer alla Danza della Fata Confetto che abbiamo appena sentito. Il balletto contiene, diciamo, in modo abbastanza sorprendente, armonie e colori orchestrali del tutto in realtà moderni per l'epoca, anche se a noi ci sembra datato quando lo ascoltiamo adesso, ci sembra una cosa molto appunto da balletto classico, Beh, da. lo diamo anche un po' per assodato perché In ormai. realtà, per il momento, insomma, l'orchestrazione, appunto l'uso della celesta piuttosto che certi tipi di scelte di Tchaikovsky erano piuttosto moderni e molto ricchi, una straordinaria varietà di melodie, di temi, non ha un solo tema rispetto ad altri balletti, ad altre musiche per balletto in cui c'è un tema principale, un po' leitmotiv che poi torna legato a ogni personaggio. Qui, insomma, essendo tantissimi personaggi minori, perché è uno tra l'altro dei balletti che non ha il corpo di ballo alla Lago dei Cigni, che fa solo il coro, diciamo, e sta Sì, è fermo. vero. Questo è uno dei balletti più interessanti anche da un punto di vista coreografico, proprio perché anche i personaggi minori hanno comunque tante parti, Sì, hanno appunto un la loro fata a sella, la carattere fata a anche. confetto, le varie danze, la danza araba, eccetera, eccetera. Mentre nel balletto classico, quando si immagina il Lago dei Cigni, piuttosto che la Cenerentola, ci sono due o tre personaggi principali e il resto è il coro, appunto, e il corpo di ballo che fa più o meno, insomma, diciamo la parte tutte uguali, un po' base. Quindi ecco, anche in questo senso è interessante, è molto bello. Nonostante l'ammirazione che Tchaikovsky aveva e l'amore che Tchaikovsky aveva per il Rococò e comunque la musica del XIII secolo, si possono notare appunto in vari passaggi invece degli aspetti piuttosto moderni, appunto, anche se lui spesso era legato a questo tipo di stili piuttosto appunto ricchi, piuttosto composti, in realtà con questo lavoro riesce molto a proiettarsi, diciamo, forse un po' più avanti rispetto a quello che era stato un po'. C'è una riduzione per pianoforte della partitura che è rimasta molto famosa e che era stata fatta da Ivanovich Tanev, che era un allievo di Tchaikovsky. E era un famosissimo, proprio una personalità nella musica in Russia in quel periodo, un grandissimo pianista che rivaleggiava con i maggiori pianisti contemporanei, e che la sua riduzione per pianoforte fu poi quella ufficiale che rimase, ed era talmente difficile che Tchaikovsky ne approntò una ulteriore più abbordabile, che nessuno riusciva a riprodurre al piano, tranne questo Tanev, appunto. Quindi, ecco, diciamo che è stata fatta in tutte le salse, ecco, la suite dello schiaccianoci, proprio probabilmente per la sua versatilità, per la sua, diciamo, complessità rispetto ad altre musiche per balletto, e non è che fossero semplici, poi semplice e complicato nella musica. Sì, come definizione. Però, diciamo, ecco, comporta una varietà di colori, una varietà di paesaggi sonori che difficilmente hanno trovato competizione, ed è per questo forse anche che questo balletto rimane forse uno dei più interessanti in generale del panorama del balletto. Ma poi si può dare da lavorare anche ai suonatori di celesta, che poverini. Esatto, che cioè, comunque. Cioè, poi lavorano celesta, una volta ogni 10 anni. Perché... celesta è un po' sì. Cioè, te suoni il violino, ti chiamano tutti, ma suoni la celesta e... è un casino. Feci con questo. Sosteniamo i suonatori di celesta. Scusa. Tchaikovsky avrebbe voluto così, lo sappiamo. E questo, quindi, in conclusione possiamo far sentire... Ci rimane un ascolto? Abbiamo due, secondo due me. Quindi... Cioè, secondo me abbiamo Fiocchi di neve, ti do sempre queste mie... Valzer dei Fiocchi di neve. No, ma sono utile comunque no, come no, spalla. No, una spalla, un sidekick. È importante. Notevole. Io ho scritto Fiocchi di neve e poi ho scritto anche un riferimento lunghissimo che è Fiori. No, ecco, infatti, cioè, perché comunque... quindi, sì, non lo so, scegliamo. Io direi, allora, Valzer dei Fiocchi di neve... Valzer dei Fiocchi di neve, si dice sì, in maniera seria. Bello, che si colloca appunto, sembra nel secondo, all'inizio dell'atto secondo, scena sì, prima. Sì, scena proprio... seconda, io ci ho scritto, guarda. Atto secondo, scena prima, cioè ecco, niente. No, nulla. Atto secondo, scena prima, danza dei fiocchi di neve. Benissimo. No, ma infatti... Appena prima del castello magico sulla montagna dei dolciumi, che comunque uno dei miei sogni più reconditi. Ah no, certo. Va bene, fiocchi di neve su di voi. Eccoci tornati, tornate veramente, esatto. Che cazzo, e dopo Fiocchi di neve, che sembra una cosa neve, tipo... che sembra un cartone animato anni 80, veramente. Sì, tipo dei cagnolini. Esatto. Vabbè. In realtà, altro che Fiocchi di neve, appunto, dicevamo che nella storia originale di Hoffman, da cui è abbastanza, insomma, rettopi, battaglie, mondi, insomma, è... ha delle profondità notevoli che secondo me Tchaikovsky a momenti riesce anche a rendere, perché forse spesso l'immaginario che abbiamo delle opere è sempre un po' riduttivo rispetto poi all'opera stessa, no? Perché quando si pensa appunto allo schiaccianoci si pensa sempre al Natale, le fate confetto. Poi in generale il balletto uno lo associa a cose eteree. In realtà il balletto, come tutte le forme d'arte, ha sia chiaramente le... no, la parte più leziosa, più legata soprattutto in alcune, e invece se si pensa appunto all'Uccello di Fuoco di Stravinsky o altre suite per balletto o alle stesse Arlésienne di Bizet piuttosto che la Carmen, insomma ci sono, ecco, tantissimi esempi di balletto classico. Io sono una sostenitrice, mi piace, non tanto per il balletto classico della Signora Impellicciata e va al teatro, ma perché... insomma, ho sempre trovato nel balletto classico, e poi insomma, quello che si vuole chiamare moderno, un po' contemporaneo, insomma, delle profondità e insomma, una capacità di espressione che va veramente molto al di là appunto del lago dei cigni come immaginario, certo. No? In realtà poi dentro il lago dei cigni c'è invece anche lì delle parti piuttosto nere. Infatti poi il problema è sempre la riduzione. Sì, anche un po' l'immaginario che sta intorno alle cose, un po' come nella musica classica, se si parla ai profani, alle persone che magari giustamente non l'hanno studiata, non la conoscono. Cioè non sì, come che noi, cioè, diciamo. Geni ovviamente, è chiaro, era implicito. Si pensa sempre a che palle, insomma, la musica classica, che noia, ecco, annoiati con Wagner, insomma, annoiati con Beethoven, Mozart, annoiati con... Anche sì, se non ti piace, però con Beethoven sì, oddio, dai, un po' sono attratti, però insomma, annoiati con Tchaikovsky, difficile, insomma, secondo me, ecco, come dire, uno si annoia con Giorgia, no, con Mozart, oh, di diciamocelo, base, ecco, diciamolo, ecco, questa è un po' una spada tratta. Ma siamo vecchie, abbiamo fatto un discorso veramente da vecchie. Un attimo. Vabbè, facciamo scendere gli ascolti così. Ma non è che poi fossero, però insomma, diciamo, se si può avere un picco in basso, ce l'avremo con questo. E sarà colpa mia, ovviamente, perché poi appena uno fa lo scatto, si frega, perché si sa che si... Cadere si cade sempre dalle fitte, no? Si va in alto e poi si cade. Perché di hubris. Rise and fall. Lo so, è colpa mia. Colpa mia. E della mia maledetta dipendenza dal saccarosio che mi ha portato per tutta la vita a sognare di essere Clara e di viaggiare in questo mondo. Non tanto per lo schiaccianosi, a me me ne fregava anche fino a un certo punto, ti dirò. Sì, dai, sto schiaccianosi. Ma mi interessava, che poi alla fine comunque ritorna a essere un oggetto di uso da cucina, insomma. Sì, alla che fine poi lo usi una volta ogni per cui non è che poi anni. Ti rimane troppo lì. Però a me insomma mi ha sempre un po' attratto questo balletto in particolare, mi è sempre piaciuto molto e come dicevo ci trovo anche appunto dei lati veramente e non ce li trovo io, insomma, non è che sono arrivata io, andate a vedere gli schiaccianoci, però di sicuro insomma a prescindere dai maledetti americani che l'hanno fatto diventare il rito di Natale, che loro sciupano sempre tutto, certo. Ma invece io lo trovo molto mitteleuropeo, cioè credo che la schiaccianoci sia un balletto tra l'altro che ha una connotazione anche molto temporale, stilistica, precisa, è vero. Cioè, si svolge nella notte di Natale di quell'anno. È austro-ungarico, secondo me. È mitteleuropeo, è in odore quasi nel Napoleone che insomma stava per arrivare, insomma c'è tutta una connotazione piuttosto specifica, ecco, di temporalità legata a questo balletto, che io trovo appunto... Quando penso allo schiaccianoci penso più a questo che al Natale, insomma al balletto di Natale in sé. Più che altro appunto l'atmosfera che dà è molto mitteleuropea, no? Con la neve, con questo momento di uscita sì. Nel sogno, che è fondamentalmente parte della tradizione. No? Ora non voglio arrivare a picchi così di citazioni, però in generale tutto questo aspetto del sogno è molto legato alla tradizione nord-europea in generale, mito europea tedesca, certo, cioè, e loro immaginifica doppio sogno eccetera, eccetera, e loro il sogno lo associano al panettone e poi Freud e apriamo insomma poi arriva tutta quella roba lì, però questo è un po' prima, però diciamo insomma ecco per concludere il balletto appunto come detto ha avuto una storia, anche questo lo rende interessante, è stato appunto modificato nel tempo, non è rimasto mai proprio uguale al suo inizio, abbiamo visto che Balanchine appunto ricrea la coreografia sulla base di quella di Petipa, ma insomma comunque si parla della storia del balletto, quindi in quest'opera si sono avvicendati al lavoro di quest'opera i più grandi nomi, appunto il compositore Tchaikovsky, Petipa è stato il fondatore di quello che noi insomma, immaginiamo il balletto fino a un certo punto, e Balanchine il rinnovatore e fondatore del balletto di tutti i passi che si fanno nel balletto contemporaneo, fino a quello contemporaneo. Per cui ecco, al di là di tutto, l'opera ha un'importanza proprio perché è stata attraversata ed è stata elaborata dai più grandi, insomma, più grandi nomi. Eh sì, e quindi abbiamo detto tutto? Ora di sicuro no. Io voglio dire una cosa. Dire, io voglio dire una cosa che non c'entra niente, ma la voglio dire. Perché mentre si parlava del libretto, della sinossi e tutto quanto, questa cosa del re dei ratti, che a me mi è sempre, non lo so, mi è rimasta addosso sempre. Sia quando leggevo la fiaba del pifferaio di Hamelin, sia quando leggevo, comunque sentivo dire di questa. Questa cosa del re dei ratti di fatto evidentemente è un archetipo che ha girato, perché vabbè appunto probabilmente da secoli i topi avevano una valenza di un certo tipo, erano portatori di significato, però a parte Neil Gaiman che citavo prima, che secondo me ha scritto qualcosa sui topi ma ora non mi ricordo cosa, Però c'è un autore che conoscono in pochi in Italia, che però secondo me vale la pena di essere ricordato, che è China Mieville, che è tutt'altro mondo, perché lui è uno scrittore di letteratura fantastica contemporaneo, un inglese bravissimo, tatuato, un sindacalista, socialista, bravissimo. E lui ha scritto un libro per bambini, anche se è tutt'altro che per bambini, che si chiama Un regno in ombra. Il titolo in inglese in realtà è King Rat, perché appunto parla di questo re dei ratti con il suo esercito di topi che vivono nei sotterranei di Londra, però di una Londra anni 90, perché il romanzo era di fine degli anni 90, e che combattono contro un moderno pifferaio di Hamelin. Tutto all'interno di appunto un underground di musica jungle, drum and bass, eccetera. E quindi Chissà se l'atmosfera, secondo me. non si sia ispirato, è Hoffman stesso probabilmente si era ispirato al pifferaio di Hamelin, perché no? Che comunque è una storia antica e tramandata, insomma, nella tradizione popolare fino poi a essere stata scritta, insomma, messa sulla carta da Christian Andersen, se non sbaglio. Sì. Però appunto, come dicevi te, l'immaginario di questo tipo affonda le radici ben prima, se non vogliamo arrivare al Decamerone, ma insomma, ecco, Ma secondo me il chiaramente. fatto che i topi portavano la Sì, peste, ah, esatto. c'entrava qualcosa. Per cui sì, chissà se non, appunto, se quest'autore che te citavi non sia stato poi, appunto, un po' abbia visto, abbia letto, insomma. E l'opera di Hoffman, appunto, poco c'entra il balletto, nel senso c'entra col balletto, ma il balletto è solo una piccola parte dell'opera, che è un consiglio a chi fosse interessato di leggere, perché è molto bella, insomma, un racconto lungo, molto, molto bello. E basta, vi lasciamo con l'ultimo Lasciamo, sì, pezzo che è che è Fiori. Fiori, perché comunque Sembra oggi è andata così. un pezzo dei Cugini di È Campagna. dei fiori, se il valzer dei fiori, lo riconoscerete perché è uno dei più celeberrimi. C'è anche, mi sembra, in fantasia, c'è questa parte qui, è stata messa insieme alle danze, alla suite di danze alla fine, ed è una delle più, insomma, più significative di questo balletto, delle più famose, sì, riconoscibile, usata e riusata, per cui beccatevela. Beccatevi questa e con quest'ultimo pezzo vi salutiamo, ci risentiamo con La fuga del gatto su Radio Wombat, che mi sono riascoltato e ho visto che non lo dico mai e quindi dobbiamo No, dirlo che no, no, siamo. diciamolo, Poi uno diciamolo. pensa che siamo su Radio No, ma 3. che è? No, per favore. No. No, no, Wombat Radio, solo. E vi ricordo velocemente i nostri social che ancora non abbiamo detto, wombat.noblogs.org, ma lo dovreste sapere se ci state ascoltando, twitter.com/radiowombatfi per il profilo di Twitter, lo stupido, cattivo, antipatico Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze e la casella di posta wombat@insiberia.net a cui iscriverci e a cui potete ad esempio rivolgervi per chiederci delucidazioni colte che noi certamente Chiaramente elargiremo dalle nostre altezze, dalle senza nostre neanche guardare vette. Wikipedia. No, No, assolutamente, no. no, no, no, senza leggere, ci abbiamo tutto Mai. infuso. Vorrei ringraziare la nostra ospite in studio di Sì, oggi, che non l'abbiamo fatta neanche no, e che tra intervenire. l'altro credo, già che, insomma, secondo me sopravvivere, ecco, all'assederamento è già Sì. un suo vantaggio, per cui Nota di merito, grazie, perché grazie di chi essere viene stata alla disponibile. fuga del gatto deve Eh sì, è soffrire. così. Sì. Eh L'arte è così, cioè, che fai? sì, Se non soffri, d'altronde. comunque, è così. E va bene, e con Oltre a sentire questo. noi, pure, E certo, quindi salutiamo la Marghe, ciao Marghe. salutiamo voi che ci state ascoltando e ci risentiamo tra una settimana, domenica prossima, sempre intorno alle 4:30 con La fuga del gatto. Ciao ciao! Ciao ciao.